ragazza mia, come sei diversa tu, cresciuta con il vento del sud. Io non farò in modo che la vita porti via dal tuo bel viso l'allegria. Vento del sud, accarezzaci col tuo respiro profondo, portaci via verso il mare ad aspettare il tramonto. Ferma l'estate nel cielo se puoi, rubala al tempo soltanto per noi. Basta solo un attimo per guardarci e capire chi siamo. Negli occhi tuoi ci sono i secoli, negli occhi miei c'è che ti amo. Vento del sud, accarezzaci, portaci fuori dal mondo, dove ci possa cullare la leggerezza di un sogno. Ferma l'estate nel cielo se puoi, rubala al tempo soltanto per noi. Ferma l'estate nel cielo se puoi, rubala al tempo soltanto per noi. Sud, accarezzaci col tuo respiro profondo, portaci via verso il mare ad aspettare il tramonto. Ferma l'estate nel cielo se puoi, rubala al tempo soltanto per noi. Ferma l'estate nel cielo, se puoi.